vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di sedere. Puntata numero 10 di Ratto di Campagna, Topolino di Città, il programma di Radio Big World dedicato a tutti coloro che vengono dalle campagne, che vengono dal contado, che attaccano la mula la mattina per arare l'orto, per insegnargli un po' le buone maniere, le maniere di stare in città, perché prima o poi le città, e in particolare la città di Firenze, a noi ci fagociterà, e già ne ha dati diversi segnali. Per imparare a stare come in città tra i fiorentini e non fare brutte figure, io poco sono capace di darvi indicazioni, perché brutte figure coi fiorentini le faccio di continuo. Ma abbiamo una nostra Beatrice, fiorentinamente parlando, che ci aiuterà a prendere un po' di etichetta. E la nostra Beatrice, la nostra guida nella fiorentinità, ecco lei che, mentre noi ancora non conoscevamo la bussola, lei aveva già scoperto l'America. Laura! Sempre io, ciao, ciao Giorgio, ciao a tutti. Laura, per noi campagnoli, visto il clima di particolare rigore che c'è in questi giorni, ci piacerebbe a questo punto imparare qualcosa sulle feste e su come si festeggiano a Firenze. E la prima festa che si incontra nell'anno è quella del 6 gennaio e è quella della Befana. La Befana a Firenze è come da noi in provincia, la vecchia brutta tazzozza che porta i regali, oppure gli avete messo qualcosa di mediceo? Invece di venire a cavallo di una scopa, a cavalca un destriero bianco. È come Lorenzo il Magnifico. Sì, però è sempre una brutta vecchiaccia, dai, e porta via tutte le feste, quindi non è una festa molto gradita né dai bambini, secondo me nemmeno dagli adulti, perché noi adulti cosa facciamo? Ci mangiamo l'impossibile durante le feste natalizie e già i primi di gennaio vogliamo fare la dieta. Allora il 6 gennaio, insomma, che ci sia tutta sta cioccolata portata dalla Befana a portata di mano non è che ci renda molto contenti. I bambini sono tristi perché il giorno dopo si va a scuola, quindi insomma la Befana... No, c'ho un bel ricordo di quando ero piccola che andai alla Befana della Fiorentina, vicino allo stadio. C'erano tutte queste befanine viola che venivano distribuite a noi piccoli tifosi. Questo è un bel ricordo della Befana. Babbo Natale, io per la prima volta in persona l'ho visto a Firenze da bambino, perché in provincia non era ancora arrivato. C'erano sti babbi nataloni e la mia reazione fu quella di mettermi a piangere. Dicevo, questo mi ruba i pomodori. I miei genitori, che sono più o meno nati negli anni 50, loro questa cosa la ricordano sensibilmente, cioè che Babbo Natale non esisteva, in quanto tradizione nordica, in particolare commerciale americana, pertanto ancora non si era diffusa, e l'unica festa che loro avevano da bambini per ricevere i regali era proprio la Befana. Questo succedeva anche a Firenze o Babbo Natale esisteva già per i tuoi genitori? Ma sì, ma noi siamo avanti, Babbo Natale qui a Firenze è sempre esistito. L'avete inventato voi! Ma scherzi, scorrazzava con la sua slitta e le renne sotto Palazzo Vecchio, attraversava Ponte Vecchio, andava a Palazzo Pitti, poi veniva direttamente a casa mia. No, questa cosa che la Befana porta i doni non è solamente tipica della generazione dei suoi genitori e della provincia valdarnese, perché per esempio è una tradizione spagnola, non so se lo sapevi, ma in Spagna i doni li portano i re magi il giorno della Befana, quindi insomma... Pensate. Tutto il mondo è paese, dai. E di scherzo in scherzo, perché alla fine una Befana è uno scherzo, una brutta vecchia che però porta i regali, fanno felici i bambini, si arriva al carnevale. Il carnevale che qui da noi è un po' artigianale, ma insomma ci sono i carri, ci sono i bambini mascherati, ci sono quelli che si tirano i coriandoli. A Firenze probabilmente la cosa è su scala ancora più grande di Viareggio. No, allora, Firenze non ha una grande tradizione per quanto riguarda il carnevale. Si vede in centro bambini vestiti che si tirano coriandoli, le stelle filanti, ma non c'è chissà che cosa per il carnevale. Chi vuole festeggiarlo come si deve, appunto, si sposta in posti come Viareggio, Follonica, oppure anche più vicino a Firenze ci sono paesi come San Mauro a Signa, Paperino in provincia di Prato, che festeggiano il carnevale in modo più grande, con insomma allestimenti notevoli. Quindi io da fiorentina non ho mai apprezzato molto il carnevale, perché non c'è una gran tradizione. Anzi, ti dico la verità, personalmente non mi piace, perché fa freddo. Vestirsi, che ne so, come volevo io vestirmi da ballerina, non era fattibile perché faceva troppo freddo. Poi li vedi in giro a volte questi bambini, e molto spesso sono tutti truccati, tutti agghindati, tutti vestiti, ma non sono allegri dalla maggior parte delle volte. Li vedi un po' arrabbiati anche da te. Le tue riflessioni sul carnevale fiorentino, e quindi non ci sono sfilate di carri, non ci sono concorsi, non ci sono maschere più belle in piazza o come a Venezia, tutti travestiti da più o meno figure settecentesche. Beh, il carnevale ai tempi del Savonarola era il carnevale dei Medici, si beveva, si mangiava, si giocava, si bestemmiava, si andava con le donnine allegre, e fu proprio Savonarola che abolì questa tradizione e al suo posto mise un qualcosa di più morigerato. Probabilmente l'anima piagnona di Savonarola e dei suoi forse ancora aleggia per Firenze. Tant'è... Sì, nei bambini che piangono quando gli tirano i coriandoli negli occhi. Pensa che una volta c'era il famoso gioco dei sassi, ossia c'erano i ragazzini che si pigliavano a sassate e ci scappava spesso il morto. Questo fu una delle cose che Savonarola abolì, e l'abolizione del carnevale fu una delle ragioni per cui fu messo a rogo. Pensa a te. Di rogo e di religione tratta la festa successiva al carnevale e la Pasqua. Religione, perché sappiamo che è una festa cattolica, non solo cattolica, cristiana, non solo cristiana, anche ebraica, pur festeggiata in differenti date o in differenti momenti dell'anno, ma Pasqua a Firenze segna un momento molto particolare, perché è una festa che prevede un grande raduno di piazza, e cioè lo scoppio del carro. In Piazza Duomo, eh sì, su questo siamo particolarmente festaioli, perché è una bella tradizione. Però devo ammettere, sai caro, non l'ho mai vista, me ne vergogno a dirlo, ma è così. Lo danno anche in televisione a Firenze. Io l'ho visto in televisione, sì. Sui canali locali. E tra l'altro anche qui sullo scoppio del carro. Ora, ignoro se fuori da Firenze ci siano altre comunità fiorentine o fiorentinoidi che facciano scoppiare un carro in piazza. Una c'è senz'altro, una è in Valdarno e è a Figline Valdarno, cioè la colombina che parte dall'altare della chiesa e va a scontrarsi contro questo carro pieno di esplosivi, insomma di fuochi d'artificio. Questo c'è anche a Figline. E beh, i fiorentini, insomma, i figlinesi li hanno massacrati più di una volta, pertanto i figlinesi hanno mangiato la foglia e più o meno tentano di passare in scimmiottarci. Sei un po' scolombarci. Va bene, i figlinesi scolombano i fiorentini. E Laura, qui parliamo o abbiamo parlato di feste che comunque prevedono tanta gente in piazza, prevedono tanta gente che aspetta, quella gente che è in piazza però dopo va a tavola, perché Pasqua è anche insomma una festa per mangiare senza ritegno. Insomma, a me piace particolarmente la colomba, piace particolarmente il cioccolato, poi la schiacciata, la ciaccia di Pasqua, come si vuole chiamare, col salamino, gli affettati, le uova benedette, queste insomma sono tradizioni belle, dai. ti volevo chiedere se voi fate il pranzo di Pasqua o la colazione di Pasqua come fanno i romani. Noi facciamo il pranzo di Pasqua, generalmente a colazione per Pasqua siamo ancora imbriachi della sera prima. Quindi insomma ci ritorna su a gola, si ripropone. Cioè... Ma infatti, non so perché a Roma iniziano a mangiare fin dalla mattina sta roba, boh. O sono meno ubriachi di noi o la reggono meglio? Chissà. E c'è un dolce o un cibo tipico fiorentino per Pasqua? Il cibo è l'agnello, però non piace a tutti. Quindi c'è sempre un piano B, nel senso chi fa il super pranzo di Pasqua cucina l'agnello e poi c'è sempre la pietanza alternativa. Per chi non piace l'agnello ho fatto l'arista, ecco. Però insomma, l'agnello e il capretto dai vanno fatti, ora non me ne vogliono gli animalisti e tutti i vegani, ma insomma vanno fatti da Pasqua. Quindi si festeggia più o meno come si festeggia in maniera standard, almeno nel resto della Toscana, probabilmente anche in molte parti d'Italia. La colomba, l'uovo di cioccolata e via dicendo. Ma colomba, mangiare, cioccolata e gente difficilmente fanno rima con agosto e con Firenze, in particolare Ferragosto. Tipico delle città italiane, Roma e Milano in testa a tutti, è svuotarsi in maniera quasi completa dei loro cittadini e dei loro abitanti. A Firenze invece? Pure, in misura un po' minore rispetto agli altri anni e anche rispetto a Roma, perché Firenze ha quel suo gruppo di appassionati turisti che sfidano il caldo e che insomma... Non hanno timore di visitarci anche quando le temperature sono abbastanza insopportabili. Un po' come in Andalusia, sai che bisognerebbe fare noi? Bisognerebbe mettere questi teloni sopra le vie, da una parte all'altra della strada per fare ombra. Bisognerebbe suggerirglielo al sindaco, perché anche in Andalusia hanno il problema del caldo, anzi maggiore del nostro. Beh. Dice che a Siviglia i tacchi delle donne si squagliano se si fermano, si squagliano sull'asfalto. Però appunto sono sempre città che hanno turismo e quindi in Spagna si sono attrezzati facendo ombra con questi teloni. Poi loro vabbè fanno anche le feste, le famose ferie andaluse che sono, insomma, prevedono un sacco di gente che beve di giorno incurante del caldo. No, da noi sì, ci sono dei turisti, ma noi fiorentini, Giorgio, lo sai, qual è il ricordo nostro del Ferragosto, il nostro campeggio? Noi scorrazzavamo con le biciclette sotto la pineta, capito? E chi c'era a Firenze a Ferragosto? Ma nessuno. Però se qualche turista ce la rende ancora viva, meglio, perché sai, la città totalmente deserta fa un po' tristezza. Quindi se va bene a loro, va bene a tutti. Qui da noi, almeno durante il periodo del boom economico e fino agli anni 70, era piuttosto, dopo non ne parliamo, era piuttosto una vergogna aver fatto il Ferragosto in paese. Tant'è che c'era gente che magari andava dai parenti in campagna a qualche chilometro e poi tornava, lavava i costumi da bagno e li esponeva fuori per far vedere che erano stati al mare. Questo succede anche a Firenze, è una vergogna per il fiorentino dire «No, Ferragosto era a casa». Esatto, sì, nessuno a casa a Ferragosto, chi c'è si guarda bene dal dirlo. Io un Ferragosto nella mia vita l'ho passato a Firenze, in giro in centro, perché partivo la sera, quindi il giorno ho detto, boh, vediamo che c'è oggi in centro. Tanti turisti, tanto caldo e insomma, non vedevo l'ora di andare al mare, ti dico la verità. Comunque saresti partita la sera. Certo, sia mai, agosto a Firenze è proprio, non lo so... Da sfigati. No, vabbè, dai, c'è chi è obbligato perché lavora, però negli ultimi anni c'è chi lo passa questo a Firenze, insomma, sono cambiate un po' le cose, ma negli anni 80, quando eravamo piccoli noi, veramente non esisteva passare agosto a Firenze. nessuno. E il buon vecchio Craxi, quando stavano bene tutti, purché rubassero d'altra parte, erano gli anni 80. Poi anche questa è una semplificazione anche troppo barbara. Cerchiamo adesso di essere un attimino più seri, perché in autunno c'è una festa che è serissima e che è tristissima. a parte i santi e quelle nuove festacce americane brutte portano anche sfiga, ma in particolare il giorno dei morti, quando l'intera popolazione del paese si riversa nei cimiteri, addirittura più impensabili, addirittura abbandonati. E qui organizzano i vigili, processioni, arriva il prefetto con i soldati, polizia a cavallo, perché è un bordello. E i cimiteri qui da noi, insomma, non è che sono grandissimi. Firenze ha dei cimiteri immensi, monumentali, sparsi per le colline, qualcuno è addirittura in mezzo ai viali. E Firenze come sopravvive ai morti? Sopravvivere ai morti è una bella domanda. Gli zombie. Vabbè, dai, cimiteri più grandi, più persone, più spazio, si sopravvive bene. Alla fine il concetto è lo stesso. O se no, sai cosa puoi fare? Tipo la partenza intelligente, come fa la mia mamma. Io i fiori alla nonna gliele porto la settimana prima, mi dice, perché se no il giorno dei morti c'è troppo casino. E se fai la partenza intelligente sopravvivi, dai. Poi alla fine, insomma, il pensiero arriva lo stesso, allora ci si può un po' anticipare. Comunque sia, anche i fiorentini hanno tradizione di affollare i cimiteri per i giorni dei santi dei morti. Sì, sì, sì. Va bene, allora in questo abbiamo qualcosa in comune. D'altra parte, qualsiasi movimento celebra i suoi morti, compreso le città e di conseguenza le famiglie. Aspetta, però, ti ricordi cosa abbiamo detto l'altra volta? Noi però, per andare al cimitero bisogna sapere chi è morto, perché non abbiamo il cartello che ci indica chi è morto. Voi siete avvantaggiati. Beh, forse per noi è occasione di visitare più volte il cimitero. Alla fine anche il fioraio c'ha da campare e pertanto se noi ci andiamo più di una volta l'anno perché abbiamo visto un bel cartello e poi perché non abbiamo molto da fare, il cimitero è un posticino di quelli fantastici, dove tra l'altro queste signore, immagino siano le signore anziane, si rubano volentieri i vasi di fiori. Fiori, stelle, fiocchi di neve, autunno, l'autunno diventa inverno e arriviamo alla festa delle feste, arriviamo al Natale, il Natale fiorentino. Com'è l'avvento, la preparazione, la decorazione? Si sente il Natale a Firenze? Oppure siccome siete gente di città, gente moderna, ve ne sbattete un po'? No, ci piace, dai, il Natale ci piace. Soprattutto la parte preparatoria, quindi l'inizio degli addobbi, le luci in centro, il super mega albero di Natale che da qualche anno a questa parte viene allestito in Piazza Duomo, tutte le decorazioni che insomma modestamente sono proprio belle, rendono la città magica. La classica domanda del fiorentino è: oh, ma si va in centro, le hanno già messe le decorazioni? Ecco, questa la sentirai mille volte. Oh, ma si può andare, che c'è? C'è già tutto allestito, ci sono già le vetrine natalizie. È magico passeggiare per Firenze sotto Natale, se magari non fa neanche troppo freddo, meglio. Poi commentare le varie decorazioni, è bello comprare, arrivare a casa piene di pacchettini, fare l'albero, penso siano tradizioni universali. Voi in paese dovete magari dal paese dovete prendere il treno e venire insomma da noi a vedere un po' più di luci, perché spesso sono un po' spelacchiati gli alberelli di paese, ma anche Roma ha avuto lo spelacchio quest'anno, quindi insomma. E Firenze com'è andata col suo albero di Natale? Si è spelacchiato anche quello? No, era perfetto, caro. 1-0 per la Fiorentina. Olè. Mia mamma figlinese, effettivamente, quando eravamo bambini e cominciava il periodo di Natale, aveva l'ossessione di andare a vedere le decorazioni a Firenze. Sa, figlie, l'avete massacrati, l'avete sgozzati, per cui questa cosa delle luci di Firenze era per lei una cosa importante. E effettivamente, quando andavamo a Firenze era meraviglioso. Noi avevamo delle lucicchie un po' tristi appese in giro per il paese, mentre a Firenze c'erano addirittura grandi artisti, o perlomeno artisti di grido, o perlomeno artisti amici degli amici per riscuotere le parcelle, e che facevano delle decorazioni effettivamente spettacolari. Però al di là delle decorazioni, dei pacchi, dei pacchetti e delle vetrine che effettivamente a Firenze diventano bellissime nel periodo di Natale, come si festeggia il Natale in casa a Firenze? Si va in paese, si va dalla nonna, si va dai parenti. Tutti, per esempio, gli studenti fuori sede che affollano Firenze anche giorni prima partono, tornano in Abruzzo, in Basilicata, a fare le vere mangiate dai parenti, perché Natale si mangia, dai, su. Per poi riportare le valigie con i sottoli e gli insaccati. Esatto, esatto. Quindi Natale tutti in casa. Anche fiorentini, vabbè, chi sta a Firenze, c'ha i parenti a Firenze, rimane in casa qua, chi c'ha i parenti li raggiunge. Si gioca a carte, si gioca a tombola, siamo tutti uguali, dai, sotto la stella cometa. La differenza forse sta più nel Capodanno. Come festeggiate voi il Capodanno? Il Capodanno da noi più o meno ci si riunisce in qualche luogo per mangiare, per bere due volte alla seconda, dopodiché si viene a Firenze. E venite a Firenze. Allora, questo è, secondo me, fondamentale. Voi venite davvero a Firenze in centro. Noi diciamo, sì, tanto siamo qua, no? Facciamo una cena, bella cena a casa, poi appena abbiamo voglia usciamo in piazza. E che succede? Che spesso, complice l'alcol, complice il freddo, la pigrizia, e diciamo, sì, vabbè, dai, ora facciamo la mezzanotte, facciamo il brindisi e poi usciamo. Sì, vabbè, usciamo fra un pochino, eh. E molti capodanni si riducono a cene in casa, che potrebbero essere ovunque, ma per il fatto che siamo a Firenze magari sono speciali. Però forse spesso, cioè, capita che per un mese si decide dove andare dopo, che cosa fare, che cosa non fare, si sceglie la casa dove cenare appositamente perché sia più vicino al concerto o al piazzale Michelangelo, al concerto in Piazza Signoria, e poi che si fa? Si resta a casa. Quindi voi, secondo me, dal paese siete più felici di uscire e di venire qua a Firenze. Per noi l'idea c'è, ma poi dopo ci impigriamo. Quindi noi veniamo a Firenze convinti di passare il Capodanno tra i fiorentini, in realtà è tutta gente del Val d'Arno o della Val di Cecina, che ne so, che però non ha nulla a che vedere con i fiorentini perché i fiorentini sono in casa. Spesso è così, è la dura realtà. Oltretutto, leggende metropolitane raccontano che fuori dai circuiti dove si riunisce la gente per Capodanno c'erano bande di criminali, non fiorentini perché erano a casa ancora a bere, e che selezionavano appunto i provinciali per portargli via portafogli, telefoni e altra paccottiglia. Però dai, fate bene a rischiare, perché insomma il concerto di Capodanno vale la pena, insomma, a Firenze è un bel evento, tanto che se noi siamo rimasti a casa, il giorno dopo guardiamo subito il telegiornale per vedere com'era, come non era, chi c'era a suonare, chi c'era a cantare, così forse possiamo dire una mezza bugia, ma sì, ma no, sì, l'ho visto, ah no, bello, bello, visto? E magari il fatto che siamo rimasti a casa rimane un po' un segreto, qualcosa di cui vergognarci un po'. I fiorentini sono famosi per i loro blef e quindi occhio quando si parla con loro, che raccontano di cose o di eventi che non hanno mai visto o a cui non hanno mai partecipato. Chiedetegli una foto con lo sfondo, l'orario, mezzanotte e 50, le 11:59, e dove eri, chiedete un selfie. Laura, grazie infinite per queste tue preziosissime indicazioni. Preziosissime. Beh, perché ora andiamo a Firenze e ci daremo un certo tono. Dice, no, sì, quel concerto non sono andato, sai com'ero, con degli amici. Insomma, magari ci permette di fare più bella figura. Grazie, grazie ancora, grazie agli ascoltatori di Radio Big World che ci hanno seguito fino a qui. Alla prossima. Alla prossima fiorentinata, direi. E Laura, un'ultima domanda: quando le mettono le decorazioni in centro? Prendi il treno e vieni a vederle, dai. Olè.